Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Something's got a hold on me, yeah. I must be loved. Oh, something's got a hold on me right now, child. I must be loved. Let me tell you now, I've got a feeling. Ciao a tutte, bentornate, io sono Rosina e cominciamo stasera con il ringraziare le compagne del martedì femminista autogestito per l'ospitalità che ci hanno accordato e per averci quindi dato la possibilità di parlare con voi delle cose che ci interessano e che ci riguardano da vicino. E a questo proposito oggi insieme a Pina, Claudia e Caterina vogliamo parlare delle modalità con cui normalmente passano le notizie che riguardano la specificità lesbica, modalità ovviamente adottate da chi lesbica non è e che quindi avrebbe poca voce in capitolo, comunque una assoluta mancanza di strumenti per descrivere ed indagare un universo che non gli appartiene. In questi ultimi anni si è fatto un gran parlare della questione omosessuale, includendo in questo termine, a nostro giudizio erroneamente, anche tutti gli aspetti che riguardano il lesbismo. Quindi giornali, televisioni, riviste, pubblicazioni mondane e pseudoscientifiche hanno prodotto dibattiti, trasmissioni mirate, sgangherate teorie genetiche e contestualmente tonnellate di pattume. E che cosa volete? Orientarsi in questo marasma è senz'altro cosa difficile e complicata. Tant'è che noi stessi abbiamo tentato per anni di trovare una risposta soddisfacente al perché della nostra esistenza. Ma in noi la chiave che ci schiuda le porte della conoscenza e che ci sveli in tutta la sua grandiosità l'origine della nostra specie, noi non l'abbiamo ancora trovata. Per fortuna però esistono menti illuminate che sacrificano la propria intelligenza e la propria vita alle cause del prossimo, elaborando teorie di ogni genere e cercando di svenderle a buon prezzo sulle pubbliche piazze, coadiuvati da qualche giornalista compiacente. Ci auguriamo che tutte voi abbiate avuto il piacere di leggere l'articolo non firmato apparso su Repubblica del 27 dicembre del 97, il cui anonimo barra A, autore barra autrice, a cui ovviamente va tutta la nostra gratitudine, ci illustra l'ultima illuminata dissertazione dell'uomo di scienza di turno, l'insigne scienziato e ricercatore Dean Hammer, capo del settore genetico dell'Istituto Nazionale Americano della Ricerca sul Cancro, il quale ci fa sapere, pensate un po', che lesbiche si diventa. Ma badate bene, certamente non per scelta. Infatti ecco qui il sottotitolo dell'articolo. È determinante l'influenza della madre. Citiamo testualmente. Qualsiasi cosa venga trasmessa alle lesbiche è più legata all'ambiente circostante e in particolare alla figura materna e meno alla genetica. E ancora, citando analisi e statistiche, Hammer sostiene che la predisposizione ad essere lesbiche viene dall'influenza materna e assai meno dalle sorelle. Proprio così, assai meno dalle sorelle. Non osiamo ovviamente pensare a cosa potrebbe accadere ad una povera lesbica orfana di madre che abbia solo fratelli. Sarebbe senz'altro un fenomeno. Ebbene, fin qui il discorso potrebbe quasi far sorridere, ma attenzione, ecco la bordata. Hammer sostiene che omosessuali maschi si nasce, perché gli uomini hanno comunque caratteristiche genetiche marcate e stabili, quindi o sono eterosessuali o sono gay. Perciò al fin della fiera sono deviati anche loro, ma almeno lo sono dalla nascita e quasi quasi non ne hanno colpa. Al contrario, per le donne che come risaputo sono più complicate, citiamo testualmente che gli orientamenti sessuali sono variabili e cangianti e oscillano tra eterosessualità e omosessualità. Quello che ne viene fuori ancora una volta quindi è una figura di donna instabile, insicura, priva della coscienza di sé, della capacità di operare e di agire una libera e consapevole scelta. D'altro canto non si è mai detto che una donna possa decidere di vivere la propria vita senza un uomo al suo fianco. Che la protegga o che la opprima, che la ami o la maltratti, in questo patto sociale una donna non può limitarsi a fare altro che vivere in funzione di un maschio. Hammer, come tanti altri, con i suoi studi e le sue teorie, con le sue analisi da cattivo maestro, non fa altro che avallare questa tesi, trasformando il comportamento deviante una libera scelta personale e politica, una scelta d'amore da donna a donna, che forse oggi è quanto di più dirompente possa esistere in questo contesto sociale. Sometimes I know that it's never enough. Ciao a tutte, sono Caterina. Quella che abbiamo ascoltato era Melissa Etheridge. Anch'io ho qualcosa da dire. Se ciò che abbiamo sentito poc'anzi erano le teorie americane, e si sa, americani sono forti, l'Italia non è da meno. Infatti, sulla stessa pagina della Repubblica del 27 dicembre scorso, ecco comparire ai nostri occhi il servizio di Marina Cavalieri, che riporta un'intervista alla sessuologa Alessandra Graziottin. La prima frase dell'intervista, tutto sommato, non è male, sentite. Questa ricerca, riferendosi alle teorie americane, è la dimostrazione che sulla sessualità femminile ci sono ancora grossi pregiudizi. Nei comportamenti maschili si cercano sempre le radici biologiche, in quelli femminili sempre quelle psicologiche. Vi ricordate infatti la teoria di Hammer? L'uomo o è normale e sono contenti tutti, o purtroppo per lui è anormale ma dalla nascita. La donna invece, siccome è stabile, è facilmente condizionabile. La sessuologa Graziottin conclude questa sua prima frase affermando che per questi motivi gli studi sulle donne sono indietro di 50 anni. Beh, nulla da obiettare, sono perfettamente d'accordo. La giornalista domanda il perché, secondo lei, di questa differenziazione nell'analisi e la Graziottin risponde, testuale, «Ancora oggi è come se le donne non avessero corpo. Trovo spaventoso questo pregiudizio che perpetua la negazione del corpo femminile». Beh, vi devo confessare che a questo punto, mentalmente, mentre leggevo l'articolo, ho strillato un «E vai!». Tutto questo mio entusiasmo è precipitato rovinosamente leggendo l'ultima frase. Se una donna ha problemi in un rapporto, si dice che non le piace il partner, mai che si cercassero radici biologiche. Punto. Dico io, ma si dice, ma che si dice? Consentitemelo per piacere, si dicono un sacco di stronzate. Quando una donna ha problemi in un rapporto, non si dice mai e neanche si prende mai in considerazione l'ipotesi che forse è il partner che non va. No, ora ci si mettono pure le radici biologiche, ma per piacere. Non contenta, la Graziottin continua. Nell'omosessualità ci può essere una componente genetica e una componente culturale per entrambi i sessi. Avete capito bene? Una componente genetica. Assurdo. Ma la cosa più assurda è che la scienza della genetica stessa insegna, nonostante i caratteri presenti nei cromosomi vengano passati ai nascituri seguendo regole di trasmissioni specifiche, dominanti o no, secondo la Graziottin, nel caso della manifestazione dell'omosessualità in un individuo, è rintracciabile un responsabile. Che non è un gene presente in un cromosoma del DNA della persona, no! È la degenerazione di un gene presente in un cromosoma del DNA, ma non di una persona qualunque, bensì nel gene del cromosoma del DNA della madre. Guarda un po' che strano, di chi è la colpa? Un nome a caso, ma non finisce qui. Ora tralasciamo per un attimo l'assurdità di queste teorie a dir poco ridicole e facciamole passare per veritiere. Accettiamo dunque l'idea che la madre trasmetta l'omosessualità. Vogliamo scoprire insieme perché, secondo la sessuologa Graziottin, è la madre che passa il fardello dell'omosessualità all'ignare e inconsapevole prole? Semplice, ascoltate quello che dice. L'omosessualità può essere causata dall'alterazione dell'ambiente materno dovuto all'assunzione di farmaci o a stress cronico della donna. No, un momento, riflettiamo bene. Il può essere causata sta a significare che originariamente la madre è sana, poi si ammala durante la gravidanza, poi ridiventa sana, non si vede più niente. È questo che vuole dire? Sì? Mamma, mi ascolti? Guarda che se sono lesbica è colpa tua. Scusate questa piccola parentesi familiare, torno subito a noi e ridivento immediatamente seria. Dunque, devo confessarvi che ho dovuto leggere più volte questa frase per capirla a fondo, ma soprattutto ho messo un bel po' di tempo a scoprire che l'ambiente materno che la Graziottin cita forse è l'utero, ma non ne sono sicura, ve la rileggo. L'omosessualità può essere causata dall'alterazione dell'ambiente materno dovuto all'assunzione di farmaci, eccetera, eccetera. Secondo voi ho capito bene? Sì, Ma allora se parla dell'alterazione dell'utero per l'assunzione di farmaci, perché parla di genetica? Ah, ho capito, forse perché concorda con una branca della moderna pedagogia, la quale afferma che il bambino è una spugna e assorbe tutto, certo, certo è così. Soltanto una mente semplice e modesta come la mia trova assolutamente difficile riuscire a capire come dei farmaci possano, alterando l'utero della madre, riuscire a condizionare la vita sessuale dei nascituri senza peraltro lasciarne traccia, né ematica, né ormonale, né gli ignari omosessuali a divenire. Non so, non lo capisco proprio. Comunque andiamo avanti, sì, perché non è ancora finita. Se è vero che le donne sono pasticcione e combinano sempre guai, e se è vero che questo le rende insoddisfatte e quindi stressate, e se è vero che anche lo stress altera l'ambiente materno, come dice la Graziottin, vale a dire l'utero, se tutto questo è vero, significa che qualunque futuro essere vi si trovi all'interno corre il rischio di rimanere contagiato dall'omosessualità. E invece no, sentite. Le donne con stress producono ormoni sulle analisi maschili. Quando il feto è maschio, questi androgeni deboli competono con gli ormoni prodotti dai suoi testicoli e si può avere come conseguenza soltanto un cervello un po' meno mascolinizzato. Il che significa praticamente che se la donna incinta aspetta un maschio, qualunque sia il suo stress, qualunque siano i medicinali che prende, può stare tranquilla, non vedrà mai crescere in casa sua un gay. Ma la Graziottin continua. Se il feto è femmina, invece, ci può essere una maggiore mascolinizzazione e ci sono anche dei casi in cui, pensate un po', è il feto stesso a produrre ormoni alterati. Non c'è che dire, siamo proprio senza speranza. Beh, c'è una cosa da dire però, che forse la Graziottin non si è resa conto che, sia pure con motivazioni assolutamente diverse, si trova d'accordo con il dottor Hammer, affermando che il lesbismo dipende dalla madre. Lasciamo stare che la Graziottin ritiene che dipenda dalle alterazioni dell'utero e che il dottor Hammer dai condizionamenti dell'influenza materna. Rimane il fatto che dipende dalla madre. Mamma, ribadisco, guarda che se sono lesbica è colpa tua. E con questo ho esaurito l'argomento di quella che la Graziottin definisce la componente genetica che causa l'omosessualità. Ma ahinoi, c'è anche una componente culturale, secondo la Graziottin, che causa l'omosessualità. Andiamo ad analizzarla insieme. Secondo la Graziottin, tutto si scrive e si determina nell'era postnatale. Infatti, dice, si determinano delle dinamiche che possono portare ad identificarsi con lo stesso sesso o alla complementazione con il sesso opposto. Beh, qui si potrebbe aprire un trattato psicoanalitico perché sulle dinamiche che si scatenano nell'età neonatale, ed io aggiungerei anche nell'età evolutiva, si sono espresse molte personalità, sicuramente molto più quotate sia di me che della sessuologa Graziottin. Ma la cosa che io trovo sorprendente è che la sessuologa specifica che dire che nel lesbismo c'è una prevalenza di cause culturali è solo un pregiudizio. In poche parole, per farla breve, tradotto in soldoni, questo significa che noi lesbiche, che difendiamo in maniera così ostinata e così caparbia la nostra scelta sessuale, rivendicando il nostro distaccarci dai condizionamenti etero-orientati, noi, in realtà, secondo la Graziottin, non abbiamo operato nessuna scelta. Siamo soltanto malate che hanno visto il manifestarsi del loro male grazie alla concomitanza, purtroppo grave, delle due componenti, genetica e culturale, equamente distribuita. Infatti, quante sono le lesbiche nel mondo? Tutte le stesse radici. Il che significa che se noi lesbiche facessimo l'anamnesi della nostra vita, scopriremmo che siamo così malate perché, primo, nostra madre o era stressata o ha assunto farmaci durante la nostra gravidanza, questo per la componente genetica. Secondo, abbiamo avuto problemi nelle relazioni primarie con i nostri genitori durante l'età neonatale, questo per la componente culturale. Oh, non si scappa, è così per forza. Ma la Graziottin non si ferma ancora. Nell'esporre le sue deliranti rivelazioni, dà il meglio di sé affermando che questa impostazione basata sul pregiudizio, cito testualmente, non permette neanche alle donne di essere curate quando hanno dei problemi. ha detto proprio, non permette alle donne di essere curate. E continua. Trovo scandaloso, per esempio, che delle pazienti debbano fare anni di psicoanalisi per problemi sessuali che poi si scoprono di natura organica. E conclude con una ciliegina sulla torta. Anche le donne hanno una consistenza biologica. Il problema è andarla a cercare. Cosa aggiungere altro? Let me say, and I love you. Per la musica indipendente abbiamo appena ascoltato I Hate Your Wife, un brano niente male, tratto dal CD numero 0 del gruppo lesbico Subway. Diamo ora lettura del nostro fax di solidarietà alla manifestazione del 14 gennaio 98 contro la violenza e l'oscurantismo perpetrato dalla Chiesa nei confronti delle lesbiche e dei gay. Il coordinamento Lesbiche Romane prende atto ancora una volta con rabbia dell'ennesimo delitto perpetrato nei confronti di un omosessuale da parte della Chiesa, della stampa e della cultura dominante. Comunichiamo la nostra solidarietà con quante e quanti conducono quotidianamente la battaglia contro l'eterosessismo imperante che semina solo orrore e violenza. In solidarietà il coordinamento Lesbiche Romane. In merito all'intervento violento delle forze dell'ordine durante il sit-in pacifico tenutesi in Campidoglio in concomitanza della visita del Papa, non possiamo che rilevare ancora una volta ciò che già sapevamo. Questo governo di sinistra ha ben poco, mentre ci sembra sempre più sinistro. Il 12 gennaio 98, ultimo sopralluogo della commissione tecnica per dare inizio ai lavori di ristrutturazione dello stabile del Buon Pastore. Dal mese di febbraio, gli spazi interessati a questa ristrutturazione saranno quelli già assegnati al centro femminista separatista. A detta della commissione, data l'urgenza dei lavori, è stato previsto il rilascio dei locali da parte di tutte le associazioni che attualmente operano in quel luogo. Questo vuol dire che noi dovremmo al più presto lasciare il Buon Pastore. Da subito sono stati inviati fax per fissare un nuovo appuntamento con gli assessorati competenti e con la commissione delle lette. Il 22 gennaio 98, Assemblea Generale del Centro Femminista Separatista e AFFI per concordare insieme le iniziative. A breve daremo altre notizie. Gli appuntamenti. Dal 26 febbraio al 1 marzo 98 a Bologna, presso il cinema Nosodella, in via Nosodella 19, si svolgerà a cura di Immaginaria il 6° Festival del Cinema Lesbico Internazionale. Il nuovo spazio che Immaginaria propone quest'anno è una centralissima multisala, una con 600 posti e l'altra di 240, e in più uno spazio riservato unicamente ai dibattiti. Per informazioni, Associazione Culturale Visibilia, al numero telefonico 051 263592 oppure via email asclv@iperbole.bologna.it. Ciao, sono Pina e vorrei concludere questa trasmissione con una riflessione, anzi con un consiglio da dare alle varie ricercatrici e ricercatori, e cioè di occupare il loro prezioso tempo in serie ed approfondite ricerche sulle cause della determinazione della eterosessualità, lasciando alle lesbiche la parola su se stesse. Comunque, c'è da dire che siamo sempre più stupite dalle incongruenze delle varie teorie che si sfornano sull'omosessualità. Infatti, già l'8 aprile del 97, la presidente dell'Ordine Italiano degli Psicologi, dottoressa Vera Slepoi, durante un convegno ad Amalfi, esordì esprimendo le sue personalissime opinioni a proposito del famosissimo cartone animato Sailor Moon e sulla possibile influenza dello stesso nella formazione dell'individuo. Secondo la brillante studiosa, madri e padri avrebbero fatto bene a tenere i propri figli maschi lontani dal cartone animato. Infatti, la giovane eroina Sailor Moon avrebbe potuto in qualche modo influenzare il loro normale processo di identificazione, portandoli così ad una sicura omosessualità. Kaja Rischer. Niente. se non che a noi donne del coordinamento lesbiche romane, tutte con un'età compresa tra i 30 e i 40 anni, finalmente ci è chiaro il perché di un nostro bizzarro e collettivo comportamento al mattino appena sveglie, e cioè il desiderio di indossare un collare per cani. Voi penserete, pratiche sadomaso? No! Semplice identificazione in Braccobaldo, il cartone che dievava maggiore di Ebbe Nostra. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Tell you right now that ooh, I believe, I really do believe.